4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici dei motori, buona serata, bentornati ancora una volta al contenitore dei motori che Radio 24 e il mensile Quattro Ruote realizzano insieme ogni sabato qui su Radio 24. Allora, puntata ricca anche questa volta, troverete tutto da lunedì sempre su radio24.it. Tanti i temi, innanzitutto partiremo con una prova realizzata da Marco Perucca, il collega del mensile, sulla Honda Jazz, il nuovo modello dopo 6 anni di attesa si affaccia sul mercato, era già piaciuta tanto la jazz, si presume che piacerà di nuovo anche al pubblico italiano. Proveremo il 1004 benzina, sentiremo le sue caratteristiche e come sempre la pagella con i voti. Proseguiremo poi con 2 auto da sogno, chiuderemo gli occhi e entreremo nell'abitacolo della Ital Design 40 e della TS Coda Tronca, 2 auto dalle grandi prestazioni, dal grande design, dal grande impatto anche emotivo, emozionale. E poi chiuderemo in bellezza con una storia imprenditoriale davvero affascinante, almeno a me ha affascinato molto, spero anche a voi. Un gruppo di bresciani hanno deciso di portare nel mondiale Superbike un team tutto italiano, anzi tutto made in Brescia. Per questo cercheremo di capire da loro le motivazioni, le difficoltà economiche, burocratiche, fiscali, i piloti, insomma ne sentirete delle belle. State con noi mezz'ora da ora. Buonasera Marco Perucca. Sì, buonasera Roberto e buonasera a tutti i radioascoltatori. Caro Marco, bentornato. So che questa volta non è una super sportiva, ormai ci hai abituato a prove sotto i 5 secondi, da 0 a 10 o sotto i 4 secondi. Questa volta lo 0-100 va fatto con calma, però a bordo di un'auto che tu hai definito intelligente, la Honda Jazz. Che tipo di prova avete fatto? Beh, la nostra classica prova su strada, ovviamente, dove si va ad analizzare tutti i lati funzionali, prestazionali di un'automobile. Questa Honda Jazz, che come hai detto tu mancava ormai dal mercato da 6 anni, cioè il nuovo modello era atteso ormai da parecchi anni, si riaffaccia nel segmento B con delle belle caratteristiche. È un'auto, come dicevo, intelligente. Un'auto dedicata appunto a chi deve viverci in auto, deve andarci a lavorare o deve portarci a spasso i bambini a scuola, insomma dedicata anche alle donne. Un'auto che insomma in uno spazio tutto sommato limitato permette di ospitare 4 persone e uno sfruttamento veramente molto molto intelligente dello spazio a bordo. Ecco, proprio versatilità sarà una delle parole che sprecheremo per quest'auto. Sentiamo adesso una scheda che ci racconta quelle che sono le caratteristiche principali della Honda Jazz. La nuova Honda Jazz ripropone la linea monovolume, un design che le consente di ottenere, a parità di dimensioni esterne, una migliore volumetria interna senza penalizzare l'aerodinamica. Offre soluzioni inedite e interessanti, soprattutto per quel che riguarda l'abitacolo. Il comfort è più che discreto per 4 passeggeri e la capacità di carico ne conferma la grande versatilità. I consumi, a fronte di prestazioni brillanti, sono contenuti. Il prezzo è tutto sommato concorrenziale. Nome, Honda Jazz. Carrozzeria, 5 porte a 5 posti. Dimensioni, lunghezza 3,90 m, larghezza 1,69 m. Motore, anteriore trasversale, 4 cilindri a benzina. Potenza, 99 cavalli. Trasmissione, trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce. Prezzo, 17.201 euro. Ecco, queste sono le caratteristiche principali. Caro Marco, iniziamo dai comportamenti, perché so che sull'ultimo modello avevate fatto qualche smorfia sul comportamento di guida. Sì, le giapponesi degli anni scorsi non erano molto attenti, perlomeno i costruttori non erano molto attenti a quello che era il comportamento dinamico delle loro automobili. È un discorso generale questo, ma che valeva anche per la Honda Jazz e che però ovviamente non vale più per l'ultimo modello. Quest'ultima Jazz quindi è migliorata notevolmente sotto il profilo del comportamento stradale, quindi tenuta, stabilità, è un'auto non sportiva, non lo deve essere, però assolutamente affidabile. Aggiungo che monta di serie il sistema di controllo elettronico della stabilità e peraltro di serie solo sul modello 1004 che abbiamo provato noi e non disponibile sul 1002, questo è un peccato. Comunque il sistema che almeno sul 1004 garantisce un'assoluta sicurezza di marcia. Ecco, senti, dicevo lo scorso sabato tornando dal Motor Show che consumi e ambiente sono state le 2 parole chiave e qui si dice che i consumi a fronte di prestazioni brillanti sono contenuti. Questo mi sembra il trend, se tu sei d'accordo, di tutti i costruttori, cercare di far consumare consumare meno sia per le tasche che per l'inquinamento, però garantire quelle che sono le prestazioni di un'auto, vero? Beh, è una scelta obbligata e lo sarà ancora di più negli anni a venire. Su questa Honda Jazz ritroviamo il 1004 Honda, però rinnovato profondamente nel sistema di aspirazione scarico, guadagna un po' di cavalli, arriva a quasi 100 cavalli, è un motore vivace, brillante, che dà una bella vivacità all'auto. Abbiamo fatto uno 0-100 in 10-8 secondi, quindi insomma ce n'è in abbondanza per muoversi bene nel traffico di tutti i giorni, però con consumi contenuti, tanto per dare un valore a 130 km orari, quindi la classica velocità autostradale, e si fanno ancora 13 km con un litro. Tutti attenti, si viaggia bene, insomma. Dai. Non è male, non è male. Sentiamo adesso invece la seconda scheda, la pagella che darà i voti a questa Honda Jazz. Posto guida. Bene impostato, si adatta facilmente a persone di diversa taglia grazie alle ampie possibilità di regolazione del volante, in altezza e in profondità, e del sedile. Quest'ultimo è piuttosto rigido e sostiene bene. 4,5 stelle. Finiture. La Jazz, come tutte le Honda, è un'auto costruita con cura. Non è lussuosa, ma sobria, razionale, pensata per un uso quotidiano e per durare a lungo nel tempo. Un bell'ambiente, comunque, dove ci si trova subito bene. 4 stelle. Comfort. A bordo della Jazz si vive bene, non c'è dubbio. Le sospensioni però trasmettono qualche scossone di troppo e il rumore del motore filtra più del dovuto nell'abitacolo, penalizzando il comfort acustico. 3,5 stelle. Su strada. La Jazz non è un'auto sportiva, ma è comunque piacevole da guidare, con un buon inserimento in curva e una tenuta piuttosto elevata. Nessun problema anche nelle situazioni critiche, grazie al buon funzionamento del VSA. 4 stelle. Allora, questa era la pagella che dava i voti. Io concluderei questa prova con Marco andando ad analizzare nel dettaglio 2-3 pregi e 2-3 difetti, come facciamo sempre nel caso uno fosse interessato all'acquisto di quest'auto. Marco. Beh, allora, abbiamo già detto bene del motore, del consumo, delle prestazioni e del comportamento, che non è poco. Un punto di forza di questa macchina è sicuramente la sfruttabilità dello spazio interno. Ci sono i sedili dietro, gli schienali dietro che si reclinano e quando li si reclina formano un piano perfettamente livellato col bagagliaio, per cui c'è una notevole capacità di carico, ma anche una bella versatilità perché si carica con facilità. Lo stesso bagagliaio è ampio, 350 litri abbondanti ed è suddiviso in vari piani, per cui insomma c'è modo anche di ancorare piccoli oggetti, di sfruttarlo nel migliore dei modi. E questo sicuramente fa parte dei pregi. Poi direi anche un punto di merito anche alla linea, torna alla linea monovolume, quella proprio classica, pura, quella inaugurata tanti anni fa dalla Renault Twingo per intendersi, che garantisce proprio un buon sfruttamento dello spazio interno, quindi una macchina elegante, bella da vedere. Per quanto riguarda i difetti, invece uno senz'altro, ma è una moda abbastanza comune a tanti costruttori, e cioè per dare più spazio al bagagliaio è stata tolta la ruota di scorta, che è sostituita da un kit di riparazione gonfiaggio, che però non è una gran bella cosa, perché se uno si trova davvero in difficoltà e rovina un pneumatico più che con un chiodo, insomma, non lo ripara più. Quindi noi in questo caso vorremmo sempre avere di serie almeno i pneumatici ranflette che permettono di proseguire la marcia. Poi un po' di rumore di troppo nell'abitacolo, l'abbiamo visto anche dalla pagella, e anche sui freni diciamo che tutto va bene finché la si usa normalmente l'auto, quando si va a esasperare la frenata, cioè ad esempio al massimo carico, frenate ripetute, in discesa, dopo un po' non sono proprio molto resistenti, per cui si può avere un allungamento degli spazi di frenata. Molto bene, molto bene. Era la voce di Marco Perucca, che noi ringraziamo. Grazie Marco e buona serata. Arrivederci a tutti. Quattro ruote e dintorni. Allora, l'avevamo promesso in apertura, adesso è giunto il momento di sognare. Chi è alla guida lo faccia ad occhi aperti. Chi magari ci sta ascoltando sul lato passeggero o morbidamente seduto sulla sua poltrona in ufficio può chiudere gli occhi e chiedersi quale possa essere veramente la sua auto da sogno. Invece delle solite Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston, Bentley, chi più ne ha più ne metta, parleremo di due auto che credo non tutti conoscano, la Ital Design 40 e la TS Coda Tronca. Voi direte, ma che auto sono? Ce lo facciamo spiegare da Daniele Sparisci di Quattro Ruote. Caro Daniele, bentornato. Grazie Roberto, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Vogliamo iniziare da Little Design. Tu hai portato queste due auto, vi siete un po' inventati un confronto che poi confronto non vuole essere, perché sono due mondi a sé, ma molto belli tutti e due, nascono da grandi passioni automobilistiche. Allora partiamo con la Little Design 40, che cos'è? La Ital Design 40 è una show car, è un prototipo di quelli che di solito viene realizzati per i saloni, per stupire il grande pubblico, che noi abbiamo portato in pista per dimostrare che a volte anche i sogni possono camminare con le gambe proprie, possono in questo caso camminare con le ruote proprie, e quindi certo, abbiamo voluto dimostrare che anche un prototipo può essere divertente ed emozionante. È una vettura disegnata da Giugiaro, dalla Ital Design, è una vettura molto particolare perché ha un portellone che si solleva verso l'alto, un po' come una sorta di navicella spaziale, ha un volante posto al centro con il pilota che guida in posizione centrale, tra i due passeggeri sì, lateralmente, ed è una vettura che strizza l'occhio all'ecologia perché ha un modulo ibrido, ovvero due propulsori elettrici e un motore termico che la spinge. Necessario, l'abbiamo detto prima con il tuo collega Marco Perucca, oggi sempre di più bisogna pensare all'ambiente e ai consumi. Non dimentichiamo che spesso poi le show car sono alla base di quelle che vediamo 3, 5, 7 anni dopo debitamente modificate nei nostri concessionari. Quindi quando andate in un salone, quando andate in una kermesse come fosse il Motor Show, Ginevra, Parigi o Detroit, tenete conto che probabilmente lì vedete quello che avremo e che riceveremo nei concessionari tutti i giorni fra 3 o 5 anni. E questa è l'Ital Design 40 di Giugiaro. Passiamo invece alla TS Coda Tronca, che nel suo nome porta parte del design del posteriore. Beh, sì, sicuramente il nome che rievoca una grandissima tradizione, quella di Zagato e delle corse, parliamo delle mitiche Alfa a coda tronca, un sistema che è nato dal nulla, appunto da Ercole Spada, che è il designer della coda tronca insieme al figlio, e che a quei tempi decise di sperimentare questo nuovo schema della coda proprio per guadagnare velocità e prestazioni in pista. Ecco, quella vettura, parte di quelle vetture oggi sono rinate in questa macchina artigianale costruita su base di una Corvette, in questa macchina che vuole essere, come dire, un po' un guanto di sfida alla crisi, una macchina artigianale che punta a facoltosi clienti in Medio Oriente, tant'è che noi l'abbiamo provata proprio poco prima di che partisse per Abu Dhabi, dove doveva andare a una fiera, ed è una macchina molto particolare, dotata di oltre 600 cavalli perché adotta un motore 7 litri della Corvette, del modello più spinto della Corvette, ed è una vettura realizzata e costruita interamente a Torino, in quelle fabbriche artigianali, in quelle officine artigianali dove ancora si lavora a mano, non si lavora con le catene di montaggio, e vuole essere, come dire, una provocazione, ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto, perché poi in realtà c'è anche collegato tutto un sistema di valigeria dedicata e tutta una serie di interni molto curati pur nella sportività. In questo caso è proprio il figlio Paolo Spada che ha lanciato il guanto di sfida al padre Ercole, che è un nome storico, insomma, certo, nelle carrozzerie, nell'Ital Design, deve veramente, in questo senso, non come brand ma come design italiano degli ultimi 40 anni. Molto bene, io vorrei ringraziare Daniele Sparisci. Senti, dove troviamo maggiori informazioni, le foto e tutto, oltre che sul vostro sito, su quale quattro ruote? Questo è sul quattro ruote di dicembre. Molto bene, Daniele, auguroni anche a te, grazie e buona serata. Auguri a te, Roberto, e a tutti i tuoi ascoltatori, buona serata. Ci occupiamo adesso di due ruote, segnatamente di Superbike. Per i pochi distratti, Superbike è una pratica motociclistica ormai molto diffusa in cui corre anche Max Biaggi, per fare uno dei nomi da cui escono grandi nomi che finiscono poi anche nel MotoGP e viceversa. In realtà ha avuto anni di fuoco quando la Ducati vinceva tutto, adesso vince un pochino meno ma vince sempre, e i campionati del mondo, i campioni del mondo lo dimostrano. Perché è diversa dalla MotoGP? Stiamo parlando di gare motociclistiche perché, almeno teoricamente, la Superbike deriva strettamente dalla produzione di serie. Dico teoricamente perché ovviamente prendono una moto esistente e poi i preparatori la ribaltano completamente, perché come sapete per guidare in pista bisogna avere delle caratteristiche molto speciali. Allora, tutto questo per dire che l'1 marzo 2009 inizia la stagione nuova, 2009 sempre molto seguita dagli appassionati di tutto il mondo, ci sarà una novità che si chiama SCI, Squadra Corse Italia, un team tutto italiano, tutto bresciano. Buonasera a Umberto Pezziniti, che ne è team manager. Grazie, buonasera a tutti voi. È vero, questo team parte da Brescia, parte da, diciamo, da radici molto profonde che affondano proprio nella passione mia, ma anche nella passione di tutti gli amici, diciamo questo è l'aggettivo più indicato, tutti gli amici che mi seguono e mi supportano in questa avventura ormai da diversi anni. Eh sì, perché diversi anni, perché in realtà non è la prima volta che voi correte nelle due ruote. Ci elenca intanto le sue esperienze come team manager, come appassionato da una parte, ma insomma è stato anche un lavoro. Che cosa ha fatto finora, Umberto? Allora, diciamo che per quanto riguarda l'attività sportiva, inizia nel 2007, anche se parte dal 2004 l'avvicinamento al mondo delle competizioni in senso stretto. E nel 2004 iniziamo con dei trofei, quindi con nell'italiano, e progrediamo man mano per arrivare nel 2006 con una partecipazione a supporto sempre del Mondiale Superbike. E nel 2007 decidiamo di unire le forze e di presentarci nel campionato italiano in una delle categorie più impegnativa, che è la Stock 1000, con una nostra struttura interamente bresciana, quindi Squadra Corsa Italia nasce nel 2007, proprio per questo obiettivo. Dal 2008 iniziamo a intraprendere un po' tutte quelle che sono le attività necessarie a preparare la stagione 2009 nel Mondiale, facciamo l'italiano e lo facciamo sempre con Honda, lo facciamo con un pilota italiano che è Emanuele Russo e Marco Muzio. Emanuele Russo nella Stock 1000 si comporta veramente bene e siamo il primo team Honda, siamo il primo team riguardante proprio le coperture, quindi le Dunlop, sì. E poi proseguiamo, diciamo, il nostro cammino sempre in crescendo fino all'ultima di campionato al Mugello, dove esprimiamo il massimo. Ecco, allora poi arriva la grande decisione che era maturata negli anni, e così stiamo facendo la storia di questa idea. Qualcuno dice Mondiale, punto interrogativo, e a tutti brillano gli occhi. Ci fa capire che cosa vuol dire per una squadra nata da amici, come lei li ha definiti, ma anche gente capace di mettere mani nel portafoglio, siamo concreti, e mettere giù soldi sul tavolo, perché le corse costano sempre di più. Ci fa capire che cosa vuol dire affrontare una sfida mondiale, soprattutto a coloro, lei si metta nei panni di chi alla TV vede le corse delle moto da quando iniziano, quando finiscono, e non si chiedono cosa avvenga prima e che cosa avvenga dopo. Che problema c'è nel fare un mondiale? I problemi sono veramente devastanti da questo punto di vista, perché praticamente il passaggio dall'italiano al mondiale implica la comprensione innanzitutto di un sistema assai più complesso. Il mondiale ha tantissime variabili, a partire proprio da tecniche, elettroniche, tante variabili, tante complessità anche legate alla struttura, all'organizzazione, i processi all'interno del box, i meccanismi devono essere assolutamente affidabili ed adeguati alla complessità del mezzo. Il mezzo rispetto all'italiano per noi è stato una scoperta tutta particolare, perché ci sono necessità, diciamo, di sofisticazioni elettroniche, meccaniche, ciclistiche, e tutto questo richiede un'elevatissima competenza, quindi si è passati da un rapporto veramente di amicizia sufficiente a gestire una moto nell'italiano a un rapporto pur di amicizia ma assolutamente professionale, dove la capacità in ogni singolo reparto è determinante. Senta Umberto, che cosa vuol dire avere un'onda a disposizione? Cioè voi che tipo di mezzo avete esattamente? Mi dica due parole sul mezzo. Bene, anche quest'anno noi utilizzeremo la Honda CBR 1000 per il mondiale, e come abbiamo fatto nel 2008 per l'italiano, e la cilindrata chiaramente è un 1000, i cavalli sono veramente tanti, sono oltre 200 cavalli, sono gestiti interamente dall'elettronica Magneti Marelli, e la ciclistica rimane come unica scelta per noi Ohlins, che è il top in questa categoria. E diciamo due parole anche sul pilota, Umberto. Sì, senz'altro, Vittorio Iannuzzo è il nostro pilota, è un pilota di Avellino, classe 82, direi classe tanta in questo caso, perché praticamente gli Annusso corre dal 96 partendo dall'SP125 e ha una lunga carriera che passa dal 2002 attraverso l'Europeo Stock 1000 con una bellissima vittoria anche dopo un brutto infortunio, e questo lo classifica praticamente nella top 10 dei piloti di tutto il mondo. Molto bene, che sia di buon auspicio soprattutto per il destino del vostro team. L'appuntamento è per il 1° marzo 2009, tutti davanti alla televisione per vedere la SCI, cioè la squadra Corse Italia. Noi ringraziamo Umberto Pezziniti che ne è team manager, gli facciamo tanti auguri non tanto per il Natale in arrivo quanto per l'ultimo trimestre di lavoro e di preparazione. Umberto, buona serata, grazie e buon lavoro. Buonasera a tutti voi, grazie. Con la sua voce termina anche la nostra trasmissione. Io ne approfitto brevemente, molto secco, per farvi tanti auguri di cuore. Ci risentiamo fra 7 giorni puntuale, ore 21, sabato prossimo. Roberto Rasia, Pietro Lacorte in regia. Vi ringraziano e vi augurano buona guida.